Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo l'ufficio legale, una voce che abbiamo sentito un po' di tempo fa, ma ritroviamo con piacere l'avvocato Alessandro Sartirana, ben trovato. Buongiorno, ben trovato. Allora, parliamo di un caso particolare, di solito con gli avvocati appunto parliamo dei casi particolari, si fa riferimento a una realtà editoriale che molti conosceranno, io per primo perché sono socio da tempo immemorabile, che è quella di Mondolibri, una società del gruppo Mondadori che fa anche vendita online appunto di libri e poi anche delle librerie dislocate in varie città. La vicenda riguarda una giovane di Mestre che è iniziata però non a Mestre ma, se non sbaglio, a Firenze, avvocato. Esatto, a Firenze. Cosa è successo? Essenzialmente la ragazza si trova in gita scolastica nei pressi di una libreria Mondadori, è stata avvicinata da una addetta, diciamo, alla vendita che gli aveva prospettato, tramite la semplice sottoscrizione di una tessera, la possibilità di godere in futuro, senza alcun vincolo, ma comunque di godere di sconti nell'acquisto di libri Mondadori. Quindi si è presentata come una tessera sconto e in realtà poi cosa è successo? In realtà, sottoscrivendo, diciamo, questa tra virgolette promozione, la ragazza ha attivato un abbonamento che prevedeva dei vincoli sia di durata che di ricevimento di libri a ogni trimestre, periodicamente. Una cosa io posso confermare, ripeto, perché appunto vengono proposti dei libri che devono essere esplicitamente rifiutati se non si vogliono, poi uno può comprare da catalogo quello che decide. Quindi esatto. Su cosa vi siete appoggiati per chiedere il recesso di questo contratto? Ma di base sulla assoluta mancanza di volontà della socia di aderire a una proposta contrattuale, in quanto le informazioni che le erano state fornite erano di carattere di tenore completamente diverso. Quindi mancava il contratto, mancavano le informazioni, la cosiddetta informativa, no? Di base mancava con tutti i diritti, tutta l'informativa. Tutto quanto. E l'azienda, la casa editrice, cosa ha risposto? La casa editrice, a seguito della diffida inviata direttamente dalla sede dell'associazione, ha tenuto a sottolineare la correttezza del personale dell'ordine incaricato, ma preso atto della situazione non ha potuto far altro che confermare la validità del recesso e quindi come tale la annullabilità del contratto. E quindi mi viene da pensare, perché è successo a me ai primi tempi dell'università, che spesso magari così vengono adocchiati dei giovani che magari non sono così svegli, mi passi il termine, per evitare appunto la sottoscrizione di contratti, magari si fanno così invogliare dalla proposta sconto. Sì, solitamente il target effettivamente riguarda prevalentemente studenti o comunque ragazzi o ragazze di giovane età. Il consiglio ovviamente è sempre quello di, prima di sottoscrivere qualunque documentazione, farsi dare tutte le informazioni e farsi rilasciare delle documentazioni scritte. Cioè appunto serve il foglio, il pezzo di carta, no? dove sono scritti tutti i diritti. Allargando il discorso in generale, avvocato, c'è un diritto di recesso valido, diciamo, abbastanza in generale? In ogni caso ricordiamo esattamente che per ogni operazione conclusa al di fuori dai locali commerciali, come in questo caso le vendite a distanza o le vendite online, il codice del consumo prevede il diritto di recesso entro 10 giorni, in questi casi, dal momento del ricevimento della merce. Quindi 10 giorni, e il recesso va comunicato in che forma? Va comunicato con raccomandata, con ricevuta di ritorno. E quindi con tutti i crismi del caso. Esattamente. Il caso si è risolto in quanto tempo? Il caso si è risolto in pochi giorni, una decina di giorni dal momento del ricevimento della raccomandata da parte di Mondadori, di Mondolibri, abbiamo ottenuto la risposta e la conferma della presa in carico della posizione, dell'archiviazione della posizione. E quindi tutto a posto, adesso la ragazza, se vuole, può appunto comprare, ma evidentemente sarà più cosciente di quello che andrà a fare e andrà a sottoscrivere. Esattamente. Altro caso risolto, dunque un po' come nei telefilm polizieschi. Allora ringraziamo l'Aldico ancora una volta e l'avvocato Alessandro Sartirana, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.